scritto sui denti. E bentornati amici dell'estate qui su questa versione Pop Corner, dove io e Marco Gualdi guardiamo dei film brutti per potervi parlare di questi film, ma allo stesso tempo anche salvaguardare la vostra salute e incolumità, perché come abbiamo detto, insomma, abbiamo scoperto che su YouTube, e questo forse è il filone della cosa, è che abbiamo scoperto su YouTube esistono tanti canali che doppiano e distribuiscono film diciamo di qualità, dalla stile Asylum a film magari di serie B, però magari prodotti dalla Eagle, dalla Warner Bros, doppiati in italiano, messi lì gratuiti a disposizione. Cioè ovviamente questi canali si reggono, hanno migliaia di visualizzazioni, quindi vuol dire che qualcosa succede. Nello specifico, il canale dal quale abbiamo estratto questo film, l'abbiamo proprio capato poi, perché abbiamo scelto abbiamo letto tutto un elenco di titoli che c'hanno sulla playlist e l'abbiamo scelto. Si intitola questo canale FFF seconda serata. FFF che sta per FFF. C'è qualche problema? Film e filmissimi free. Free. Quindi okay. Si chiama FFF seconda serata, film e filmissimi free. Allora, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un film. Ecco. Giusto, penso che la prossima puntata ci voglia proprio. No, allora, rispetto al film che abbiamo visto all'inizio, c'è molta più azione. Sì, perché rispetto a quello della puntata scorsa, molte cose, dialoghi. Allora, avventure. Diciamo, succedono cose. Succedono cose. Che già è. Ma andiamo a parlare. Che è già il 100% in più rispetto al film. Andiamo a parlare del film. Il film è una pellicola del 2007. La pellicola è una parola grossa, naturalmente. Si dice così. Sì, è un modo di dire. Sì. Adesso non possiamo dire il microchip di una SSD del 2007. Esatto. Il titolo originale è Nightmare City 2035. Il titolo originale del 2035 è Odissea nell'incubo. Sì, che più o meno, insomma. Che vabbè, più o meno. Il genere ovviamente è fantascienza, distopico thriller, perché ci hanno buttato un po' di tutto. La regia è di Peter Mervis. Ma il cast? Nel cast c'è Amanda Donoghue, che è la dottoressa Elena, Matt Borlenghi, che è Jake, Rutger Hauer, che fa il presidente. Irriconoscibile, perché io non l'ho ancora reso conto. Ma però io te l'ho detto che Rutger Hauer faceva un sacco di. Ma magari era quello con gli occhiali che stava sempre al centro. Però era lo speaker. No, è quello che appare sugli schermoni. È lo speaker. Sì. Forse vedi che lo speaker. Ma siamo sicuri che è giusto il. Non lo so, però mo ti leggo la trama. Ora c'è cioè Brianna Brown Lori e Ingrid cantante. Allora, siccome che non c'è Kyla. Secondo me il film era giusto. Però nel 2035 il mondo è controllato da un governo corrotto che utilizza microchip impiantati nel cervello delle persone per manipolare la realtà e far credere a tutti di vivere in una città utopica. Tuttavia un gruppo di ribelli scopre la verità e cerca di liberare la popolazione del controllo mentale. Ora, la trama è giusta, sì. Gli attori sbagliati. No, sono sbagliati. Ma sei sicuro che non sia un remake questo? No, infatti, perché secondo me gli americani se lo sono rifatto il film. Questa sensazione. Allora, il film che abbiamo visto noi è di produzione bulgara. Che non sarà del 2007, probabilmente. Ed era pure. Sì, boh, non mi ricordo, raga. Adesso mi è stato a chiedere troppo. Comunque, è una produzione bulgara. E la trama è giusto quello che dice. Anche se diciamo che ci sono tutta una serie di presupposti che non ti devi domandare. Perché voi dovete considerare che esiste questo mondo. Anzi, questo mondo, questa città, perché sapete che poi in certi film di fantascienza la città è un po' come su Cyberpunk 2077, no? Cioè, la città è il mondo, cioè nel senso è tutto lì, no? È tutto circoscritto, dove c'è questa specie di commissione che governa in maniera distopica e tramite ovviamente il comandante della sicurezza, che non è la polizia in sé, cioè si chiama proprio la sicurezza, che è il più matto di tutti, cioè proprio quello che vuole fare proprio l'iperdittatore. Però, e qui poi passo a Marco che così insomma lui poi le trame forse le sa anche spiegare meglio, la cosa bellissima è che questo film, che è fatto con gli stessi soldi di quello del precedente, però sono stati più bravi perché hanno... No, sono più soldi secondo me. Tu più hanno soldi. Dovuto pagare Rutger Hauer. No, la credo che sia morto. Rutger Hauer, lui veniva gratis a fare sta roba, l'ha fatto anche in Italia. Cioè, no, ma per fare questo probabilmente si è fatto le zone, però questo mi deve pagare, cioè, no. Ragazzi. Faccio tutto, ma questo non si deve pagare. Comunque, praticamente quello che succede, tutto il destino di questa città, cioè diciamo che nelle mani di tre persone, cioè nel senso che 5-6 persone, succedono cose in quattro location che sconvolgono tutto il mondo. Esatto, quattro location, e c'è soprattutto questa base della sicurezza che è la centrale della polizia, che c'ha pure quella, c'ha tre location, ci sono tre uffici dentro e non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno, soprattutto la scrivania del capo della polizia. La scrivania del capo è un po' come l'acqua sentiera, tutti ci mettono le mani dentro, insomma. Cioè tu entri e trovi sempre, se vuoi puoi anche lasciarci una cacca da sopra, non se ne accorgerà mai nessuno, insomma. Poi tu durante la storia del film riesci a capire che a tutta la popolazione che è stato impiantato questo chip, che è qui un po' di matrixiana memoria, diciamo, gli fa vedere una realtà illusoria, in realtà più, il mondo più che Matrix, essi vivono, vabbè, sì, più essi vivono, però diciamo che gli fa vedere questa realtà illusoria perché loro vivono in una realtà completamente decadente, se mangiano i vermi e via dicendo, però loro quello che loro vedono è una città pulita, splendente, illuminata, piena di luci e tutto il cibo bello, che è un'allegoria, perché il nostro mondo in realtà che ci sembra tanto bello è una decadenza, esatto, cioè la metafora, esatto, bello, bella. E quindi tutti hanno sto chip, e però soltanto un gruppo di ribelli, senza sapere come, senza sapere il perché, è in possesso dell'informazione, hanno capito tutto e hanno anche organizzato un piano per sventare tutto questo. Il problema è che in tutte queste milioni di popolazione della città e tutta la polizia, i robot volanti, i droni volanti della polizia e tutto quanto, questi sono in 6-7, quanti sono? No, guarda, sono 12-13. C'erano 13 in realtà, però siccome che portava sfiga uno l'hanno mandato. Però ma con questo poi ci arriviamo, perché praticamente allora c'è sta situazione in cui sti due tizi, tra cui la figacciona di turno con un'espressività pari a quella della lampada e un altro tizio, decidono di praticamente rubare un microchip da un poliziotto, che sono in questo caso considerati ufficiali minori, cioè poliziotti di basso rango, e praticamente ci finisce in mezzo il nostro eroe, che si ritrova a essere assaltato con sto dottore che cerca di levare il chip ma non ci riesce, però evidentemente succede qualche cosa perché questo chip comincia a malfunzionare, per cui lui comincia a vedere la realtà per quello che è un po' come occhiali che essi vivono, quindi ogni tanto vede tutto quanto che diventa una merda e si rende conto che c'è qualche cosa che non va, e quindi lui capisce che deve fare qualche cosa, che deve intervenire. Poi è bellissima quella scena del panino, che loro si mangiano i panini, e a un certo punto lui vede che dentro i panini ci stanno i vermi. Sì, perché lui, non so perché gli senza hanno... motivo, tra l'altro, ci stanno i vermi. Cioè tu ci metti hamburger e ci metti sotto i vermi, ma, cioè, ma mettici solo i vermi. Ma perché loro mangiano quelli, cioè è tutta spazzatura intorno a loro. Poi è chiaro che, come dici te, è un po' una metafora, no? Cioè nel senso, però tutto spazzatura. Infatti lui, il poliziotto, che poi alla fine diventa l'eroe, insomma, cioè, diciamo, della situazione, anche se poi lui passa l'ultimo quarto d'ora del film, pia solo lui pia le ma non solo l'ultimo quarto d'ora, tutto il film pia botte. Solo un sacco di botte, però quante gliene ha dette. Che a un certo punto, non so se per via delle botte che gli hanno dato, a lui c'ha sto chip che gli va in riavvio, gli fa i sbaglioni, e quindi lui ogni tanto si rende conto, vede questa doppia realtà, no? Esatto. Cioè, che capire che è un po' una dal stronzata, punto di vista visuale, è una stronzata. Posso dire, dal punto di vista visuale, è una delle cose più brutte che io abbia visto. Sì, siamo nel 2007, forse nel 2007, non lo sappiamo. No, vabbè, al di là dell'anno in cui è stato prodotto questo film, la qualità. Ricordati che sei in Bulgaria, iperdozzinale. Esatto, quindi sei in Bulgaria. Ma la cosa bella è che tu vedi questo mondo che è perfetto con il chip, però abiti in palazzi dove non ci stanno le finestre, non ci stanno i tetti. Perché poi quando tu vedi praticamente il mondo senza l'illusione, c'è sta città che è veramente devastata, ci stanno i palazzi senza i tetti. E lì come cazzo, cioè, non ti sei reso conto che cazzo, ma mi stavo a morire di freddo eppure c'è tutte le finestre chiuse, cioè non ti renderai conto che c'è qualche cosa che non va, cioè per esagerare nel mostrare la città decadente l'hanno fatta troppo decadente. Sì, diciamo che è come diventato un film urbex, la gente che va nei villaggi abbandonati. Sì, non c'è senso. Poi vabbè, magari c'è stato l'altro poliziotto a cui viene tolto, perché a un certo punto il collega di sto tizio gli levano il chip e lui comincia a vedere il mondo per quello che è, vede tutta monnezza per terra e si arrabbia. E sarabbia perché ridatemi la mia città. Perché è un po' come Matrix, c'era quello riportatemi dentro Matrix perché non posso vedere questa sozzeria. Vabbè, comunque che succede? Che sto tizio si ritrova a faccia a faccia di nuovo questi due coglioni della resistenza che erano andati a sabotare una torre di sicurezza, perché praticamente sta tizia ha un chip particolare di trasmissione. Ha un chip particolare. Sì, allora, perché permette perché non l'abbiamo detto, la protagonista è quel poliziotto che abbiamo detto che pia le botte, che poi diventa involontariamente l'eroe del film, e questa ragazza si chiama Kayla. Esatto. Che però non si è capito se lei c'ha veramente solo un chip potenziato. No, c'è un chip totale. O se è tipo un androide. No, c'è un chip potenziato, è un prototipo, un ultra chip. Che spara però le cose dall'occhio. Che spara non solo le informazioni agli occhi, quindi lei con solo in posizione dello sguardo può controllare le macchine, ma a seconda di come lo ritiene la sceneggiatura. Esatto. E quindi cercano di fare un download di un virus che lei non sa dove l'ha preso, chi l'ha dato, vabbè, chi l'ha programmato, di fare un download nel virus in questa torre di trasmissione per sabotare il 20%, mi ricordo sta cosa del particolare, il 20% testa sta cosa del 20% perché trasmissione, del 20%. Però praticamente è bellissimo perché c'è questo poliziotto che sta davanti a sto centro di trasmissione, arriva lei, hanno appena ammazzato le botte uno, gli hanno sfilato la tuta e lei si è vestita da poliziotta, arriva, salve, sono il collega si è sentito male, gli hanno dato un sacco di mazzate e quindi prendo io il suo posto, ciao vattene, e il poliziotto dice sì, ok, va, me ne vado, ciao, senza chiedere documenti, cazzo. Però siccome che ce la si allunga, si allontana di 5 metri e dice qua è successo qualche cosa che non va, perché lui schiava la situazione. Cioè, era troppo intelligente. E quindi mandano casualmente il nostro eroe con la sua macchina fantascientifica. E il palo che era stato lasciato là davanti, a un certo punto si accorge che sta arrivando la polizia. È bella questa scena perché scelgono di correre e di fuggire dalla polizia buttandosi davanti alla macchina della polizia. Loro stanno veramente in un boschetto perché c'è soltanto. No, però, questo diciamolo, no? Che al di là delle scene dentro la centrale della polizia, che allora utilizziamo il termine c'è della scenografia. Ok, quindi qualcuno ha allestito della roba. In realtà tutto il resto del film, soprattutto gli esterni, ti dà proprio l'impressione di un film amatoriale fatto da noi per strada che magari a 17 anni si mettiamo qua la telecamera, oh famo sto film, sono delle inquadrature tipo proprio che esci dal bosco di gatta cieca, cioè da roba brutta proprio, cioè, insomma. Perché la realtà è brutta, Pizzi, è tutta un'allegoria. E quindi praticamente il film in realtà è rappresentativo del fatto che la realtà è brutta. Quindi questi due si incontrano, lei scappa perché poi tra l'altro c'è pure questa cosa nel film che dobbiamo dirle, che praticamente ogni persona che viene catturata poi scappa. Cioè è una cosa incredibile. Sì. Viene catturato, mobilizzato, poi a un certo punto scappano e temenano. Comunque lei scappa col ragazzo, con l'altro palo, scappano, si dividono, anche due poliziotti si dividono. E poi però lui la cattura e dice no guarda che noi stiamo cercando di salvare il mondo perché tu so che magari hai cominciato mai convinto, adesso ti lascio andare, rimane lì come offesso mentre viene visto dal suo collega. Da quel momento il suo collega, che era una rivista de merda chiaramente, oppure era convinto del sistema, solo canta. Però diciamo che non andiamo a raccontare poi. No, ma le cose salienti e divertenti sono queste qui. Perché poi per far lo sterminio dei ribelli è. Ecco, perché poi si arriva allo sterminio dei ribelli, no? Perché è bellissimo. Cioè, stanno questi 12 ribelli perché 13 portava la sfiga e l'hanno mandato via. Che praticamente vengono presi d'assalto. Ma perché? Raccontiamola pure perché. Perché questo il nostro protagonista, che non so come si chiama, in centrale fa delle ricerche su un pezzo. Ricordiamo che i poliziotti sono divisi in agenti minori e in agenti ufficiali superiori. Ufficiali minori e ufficiali superiori. Ben così. Tagliata proprio. Sì, sì. Chissà come si chiamano in inglese. E comunque, è bulgaro. Però parlavano il bulgarese. E praticamente fa questa ricerca su un oggetto che gli ha sottratto la ragazza per cercare di capire dove stanno. Lo fa nella centrale davanti al collega suo che sta proprio di fronte, e poi fa finta che non aveva fatto nessuna ricerca. Ovviamente il collega suo sgama tutto quanto perché vede dove stanno i ribelli, va dal capo, andiamo da ribelli. Fermate, non è che sgama, cioè è una delle scene di proprio didascaliche, quelle fatte proprio da un regista che non è buono a fare regista. Cioè praticamente si vede lo schermo di quello che sta a fare la ricerca e dietro si vede la faccia di quello che sta così tutto grugnito, no? E tu dici, ah cazzo, l'ha sgamato. Ma poi come fa? Che c'ha la vista a curvatura? Cioè, nel senso, cioè stava dietro lo schermo. Come faceva a sapere? Lo schermo è trasparente. Lo schermo, ma non so come. Lo schermo è trasparente, sì. Olografico. Sì, lo schermo è, però lui c'era il muretto davanti. Sì, ma era più basso. Vabbè, comunque, non ti dava tutta questa privacy. Il che rende la scena ancora più grottesca. Perché stai dentro, stai in mezzo a tutti gli altri agenti. Se cercherà di fare una cosa segreta, ma vabbè. Se tu, cioè, voglio dire, se lo schermo è trasparente, tu non ti accorgi che c'è uno che sta dall'altra parte dello schermo? Per questo che sta guardando in cagnesco. Scusa, te dovresti accorgere. Comunque, beh, non se ne accorge perché insomma, questo ha preso un sacco di schiaffi. Era preso un sacco di schiaffi, sì, ma pure il ragazzino, secondo me, ha preso un sacco di schiaffi. Quindi non c'è sta tanto con la capoccia. E quindi, questi qua, sta polizia va a dare la caccia, a sterminare questi ribelli che praticamente. Sono, che abbiamo detto, 12, e più o meno sono anche 12 poliziotti, una cosa del genere, perché ho come l'impressione che, visto che non abbiamo nessuna inquadratura, mi sembra che ci sono contemporaneamente sia i ribelli che i poliziotti. È probabile che questi ribelli prima si siano vestiti da ribelli e poi da poliziotti e se abbiano fatto sì, sì, perché sì. Io non li ho visti, no, non c'è mai, poi sono tutti con la faccia coperta, quindi capire. E poi loro praticamente, poi, però, la polizia stermina questi ribelli con i liquidator, con i liquidator, ma digli che effetto sonoro che fanno questi liquidator. Veramente non lo sentivo dagli anni 70, una cosa del genere. E praticamente partono sti raggetti, sti sputacchi di luce, poi, perché sembra più che raggetti, sono sputacchi di luce, che arrivano a due all'ora sul corpo di quello e li ferisce. Poi però uno di questi qua, cioè allora, chi veniva colpito moriva all'istante, tranne uno dei capi della resistenza che, nonostante avesse 4-5 buchi, era ancora vivo. No, solo due, ce n'era. No, ce n'era 3-4. No, due. Vabbè, io me ne ricordo. Sicuro l'ho contati, guarda. Me ne ricordo di più. Però. Due buchi. No, quelli erano gli altri che prendevano 4-5 colpi, però continuavano a camminare. Perché... Che è fatta malissimo questa cosa. Sai che vuol dire? Che le scene dell'uso delle armi a energia su Forbidden Planet erano fatte meglio. Lo so. Cioè, nel senso che... Quanto quello era un film. Non era una zozzeria. Sì, però era pure dei 40 anni prima. Lo so, però... Cioè, che te dico? Fa la differenza sta cosa. Comunque, vabbè. Sterminati tutti questi... E rimane aggiunta la nostra belloccia. E lui che continua a prendere schiaffi da tutti... E praticamente loro, vabbè, è un po' complicato perché dovremmo, cioè, perché poi alla fine, se tu ci pensi, gli elementi ce ne stanno una cifra, perché c'è sto consiglio, uno dei membri di questo consiglio era quello che aveva allevato sta ragazza, quindi lei loro vanno a casa di sto consigliere, come hai potuto, lui va bene, adesso facciamo del bene perché per l'umanità. Loro praticamente, non spieghiamo sta cosa, perché che loro erano penetrati dentro la camera, la stanza del sto super cattivo, perché praticamente volevano downloadare il virus sì. Lì dentro, però c'era una doppia password, una l'avevano craccata e l'altra erano delle lettere. Diciamo, che cazzo sono queste lettere, non riusciamo a capire, quindi sono costretti a scappare. Però praticamente, però il poliziotto ci arriva al fatto che erano dei note. No, perché lui è appassionato di musica, cioè. E quindi viene, che è l'inno la gioia di Beethoven. E qui appunto c'è una stoccata contro l'Europa, così a caso. Ci sta sempre a caso. Ma questo perché i cattivi, in particolare il capo della sicurezza, che è il più cattivo di tutti, anche se il consiglio non era convinto, voleva passare alla seconda fase del controllo sulla popolazione. C'è proprio il controllo vero e proprio. Ossia, basta illusione, sti cazzi se vedono la realtà com'è, però noi possiamo fare un condizionamento psicologico di massa. Perché possiamo manipolare tutte quelle che sono le chimiche del cervello. La chimica del cervello. E per dimostrare questa cosa, in realtà... fa un test stupido, cioè che non c'entra un cazzo. Esatto. Però vabbè, secondo me è da raccontare sto test, perché cioè praticamente all'inizio del film il nostro amico poliziotto ferma, in realtà si fa menà pure da questo, uno stupratore che vuole stuprare una. E a un certo punto, appunto, il test che fanno è prendere sta tizia, metterla davanti allo stupratore, liberarlo e mettere sta lì. Lo stesso stupratore. Esatto, mettere sta lì per stuprarla, perché ovviamente stai dentro una cosa di pulizia, ti mettono una davanti, dice vabbè, allora la devo stuprare per forza, che sto a fare, non hanno liberato apposta. Ma mentre ci prova, manipola il cervello, a un certo punto diventa un cucciolotto che si mette lì con sulle gambe della donna, si appoggia. E si mette in posizione fetale. Diciamo. E lei lo comincia a carezzare, povero, cioè una scena pietosa, veramente. Brutta vera. Pietosa. E comunque vabbè, loro vogliono passare sta seconda fase, e nel mentre ovviamente il poliziotto buono e Kayla vanno a casa di sto consigliere, roba del genere. Però dato che loro entrano dentro casa del consigliere, che era iper barricato dentro casa, però lasciano il garage aperto, e quindi arrivano i poliziotti cattivi. No, non è che lasciano i poliziotti, cioè loro ci vanno a casa di questo perché rapiscono un ufficiale superiore che viene stordito, ma poi si riprende, siccome che si è ripreso, sempre, sempre loro hanno lasciato il garage aperto, ma è indifferente, che fosse, perché basta che questo chiama rinforzi, giustamente. Vabbè, cioè, vabbè, comunque diciamo ci avrebbero avuto più difficoltà, mettiamola così. Vabbè. Comunque fatto sta che noi assistiamo veramente a una scena di morte che è probabilmente una delle più toccanti, drammatiche e cinematograficamente rilevanti della storia del ho la pelle d'oca adesso a ripensarci, cioè qualcosa... Ed è difficile pure raccontarvela, perché la dovete vedere, ragazzi, dovete prendere, cercare il film, che vi ripeto si chiama 2035 Odissea nell'incubo, e andare a vedere questa scena, perché praticamente gli sparano al rallentatore e lui si accascia come una medusa su girando la testa verso l'indietro, così, cioè, E io ho riso per 20 minuti, perché raccontarla così non rende. No, dovete vederla. La dovete vedere. Vabbè, comunque, alla fine succede il gran bordello, arrivano sti droni volanti, che però se ti arriva il poliziotto volante androide, diciamo robot, e ti dice mani in alto, sei in arresto, tu ti metti le mani in alto, lui dice ah bravo, grazie per aver collaborato, e li inculi subito sti poliziotti robot. E vabbè, comunque botte da Orbi, lei cracca tutto, cracca i fratelli, Gesù, la Madonna, i robot, tutti quanti, e alla fine insomma la scazzottata generale col cavo cattivo, batte da Orbi, roba del genere, sul tetto del palazzo. Poi diciamo dove sotto al palazzo c'è tutta la gente che si è riunita, perché oramai sa la verità. Esatto, l'illusione è che è venuta a mancare, quindi vedono la realtà, e c'è questa folla immensa di 15 persone, copie incollate praticamente sul terreno, fantastico. Col tizio con la maglietta a riga è fantastica. Cioè, perché non puoi fare una cosa anonima, puoi fare un compositing di una folla e metti uno che c'ha la maglietta riga bianca e rossa, che se lo vedi a miglia di distanza. No, c'era pure quella della maglietta verde che la vedevi, c'era proprio un pattern. Ma la cosa bella è che nonostante che tu hai fatto questa cosa a volo d'uccello, non hai neanche riempito l'inquadratura, quindi a me queste persone non erano 15, saranno state 150, ma non è, dove è la rivoluzione della gente inferocita che oramai ha capito la verità e vuole uccidere tutti. Comunque alla fine loro fanno confessare al cattivo, che però poi, perché lui ha fatto una cosa gravissima, cioè ha rotto internet. A lui ha rotto internet, che è il motivo per il quale è stato installato il chip, perché la gente non c'aveva più internet. Esatto, quindi niente più gattini, Facebook, Twitter, Elon Musk si è ammazzato, cioè una cosa terribile. Però con chip si è risolto, una roba brutta. Vabbè, comunque lui quando alla fine tutto quanto confessa, la gente maledetto, il poliziotto che ha preso un sacco di botte non è che dice mo mi hai rotto il cazzo, perché dopo 3-4 volte che questo comunque sta lì per ammazzarti, lo catturi però te scappa, sta lì per ammazzarti, lo catturi però se, alla fine dice mo gli do una schioppettata in fronte, no io ti arresto, io direi ancora di arresto, però lui non ci sta, e nella colluttazione praticamente cade di sotto. Viene, cioè il cattivo cade di sotto. E arriva lei che in tutto questo momento drammatico è stata seduta davanti al computer. E non la faccio bere, ma Pizzi, ti hai dimenticato una cosa? Come muore il cattivo? Ragazzi, ti sei dimenticato? Allora... Questo casca di sotto. Allora ci sono queste scene fatte ovviamente in compositing, fatte male naturalmente. E a un certo punto, ragazzi, vi è mai capitato quando eravate pischelli o le prime volte che lavorate in ufficio che vi siete messi la faccia sulla fotocopiatrice e vi siete fotocopiati? Ecco, stessa cosa. Cioè, praticamente lui, per far vedere che se sfracella, appoggia la faccia sulla telecamera. Sì, perché si vede che dall'altro che cade. Cioè, non è descrivibile sta cosa. Cioè, è un'altra di quelle cose che dovete andare a vedere. Verso la fine, andate. Cioè, se non volete tutto il film, andate verso la fine, perché la morte di questo è una cosa che va vista. Esatto. Cioè, non puoi non vederla. Cioè, è una cosa proprio fuori dalla grazia di Dio. Bellissimo. E poi ci sono i nostri due eroi che nel frattempo hanno trovato anche il tempo di pomiciare, perché giustamente così F4, sì, a già, cazzo dei cani, sì, assolutamente senza, cioè, a un certo punto ecco, oh, Marbacio cazzo, qui metto qui a cazzo dei cani, sì. fa un risco così de botto senza senso, più o meno così. Lei è belloccia. Sì, è bella ragazza, ovviamente, come ho detto, l'espressività della lampada. Ma però lui. Sì, no, lui un po' più di espressività ce l'ha, dai. Sì. Lui sai che mi ricordava un po' cosa? Jason Statham. Sì. Chi? Jason Statham. E chi? È l'uomo d'azione del momento, degli anni 2000, insomma. Quello pelato, grosso. Sì, esatto. Ma forse magari. Però Jason Statham con cromosoma in più, cioè, dire, orientativamente. Però insomma, cioè, ecco, è così. Poi ricordo perché è pelato. Vabbè, insomma. Andiamo. La tua recensione. Chiudiamo. Allora, la mia recensione è un film assolutamente da vedere. Cioè, allora, questo è uno di quei film che lo devi vedere con qualcuno. Esatto. Alla fine ti fai pure due risate. Esatto. Poi bisogna prendere, insomma, ispirazione da questa cosa. Che questa è un'allegoria. Per non farne mai più. Per farne altre, per capire l'allegoria del fatto che il nostro mondo fa schifo, che è colpa dell'Europa. Che poi chiude con l'inno alla gioia, insomma, quindi per far capire che l'Europa è un'illusione e ci porterà alla distruzione. Può essere che c'è una metafora sociopolitica. Sono bulgari questi, bulgari americani, che proprio con l'Europa, non lo so. Il top. Secondo me c'è pure qualche russo in mezzo. L'oligarca russo gli ha dato due spicci, secondo me. Quindi insomma, diciamo che allora tra questo In the Market e Creator the Past, come lo collochi? Allora, tosta. Sicuramente io considero Creators the Past comunque il peggio, e quindi sotto, il top. Peggio di quello io non credo, perché per quanto possa far schifo, comunque c'è un montaggio migliore di quello dei Creators, per quanto possa far schifo. Sì, che poi ricorda molto. Secondo me è peggio di In the Market. Peggio di In the Market. Sì. Cioè, In the Market comunque in qualche modo c'ha un motivo di esistere. Sì. Nella sua bruttezza. È recitato male. È quello. Cioè, la storia è stupida, non c'ha senso. Però quanto abbiamo riso. Ci siamo affezionati. Allora, forse è una questione d'affezione. Cioè, tu avrai sempre un buon ricordo di In the Market. Invece, questo film che ricorda un telefilm di serie C americano degli anni 80, che è proprio qualità proprio zero, 90 perché utilizzava l'Amstrad per fare gli effetti speciali che si usava in quegli come Babylon 5. Mamma mia, che aveva comunque effetti speciali migliori di questo film, ma malgrado non avesse le texture, però comunque erano meglio. Perché era fatto con l'Amiga, con l'Amiga era fatto. Vabbè, sì, comunque ragazzi, c'è un film. Allora, io continuo a dire, secondo me, se ci avete, a volte, proprio una volta, io voglio proprio vedere una cazzata, magari insieme a mia moglie o qualche amico con cui ci divertiamo davanti a dubire, secondo me, 2035, Odissea dell'Incubo è un film che va visto, cioè, va visto, te lo puoi guardare. Però è una però non quello con Rutger Hauer, mi raccomando. È una merda. Sicuramente sarà meglio. Ma adesso per curiosità dobbiamo andare a recuperare il remake americano, perché insomma. O hanno doppato con il cast, perché non c'è Kyla. No, ma secondo me è stata Gemini, ha fatto casino come sempre. Allora io dico così, che intanto ti ringrazio, però adesso devo convincere Marco a vedere una cosa che è in bianco e nero, è giapponese. Ma è vecchia? È vecchio. Io su quelli vecchi non so, io son contro il vederlo, perché quelli vecchi comunque sono fatti in un certo modo, perché erano figli dell'epoca. Però, oggi però è interessante, ti giuro, io ho visto i primi 5 minuti, è interessante perché tu che parti dalla cultura degli anime ti rendi conto che sta roba era già partita, cioè sta loro mentalità Power Ranger già esisteva negli anni 50. Ma certo che c'è stata. Ma io sono rimasto folgorato. Quando stavano i Godzilloni. Dammi retta. Vabbè, ma sicuro. Ti convinco, ce lo vediamo e poi. Perché però quando tu vedi un film di quegli anni non puoi dire però è fatto a cazzo le cane, perché è ovvio che è così. Infatti quando le fai a cazzo le cane oggi è bello. Secondo me è più interessante il fatto comunque raccontare il film e vedere che cosa ci tira fuori rispetto a quella che è la cultura giapponese che abbiamo conosciuto. Cioè, nel senso, in Europa non ci sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere. Mai. Quindi, è Hiroshima? È Hiroshima? O è una cultura proprio loro che è arabica? È interessante questa cosa, eh? Ma già quando c'erano i samurai facevano così. Non lo so, però qualcosa ci deve essere. Era uguale, sì, si Power Ranger samurai. Sì. No, lo devi vedere, guarda, ce lo vediamo e poi ne parliamo, e poi un altro film moderno e poi chiudiamo, insomma, ragazzi, altre due puntate che, insomma, che cazzo volete, è già tanto quello che stiamo facendo, quindi merde, grazie a Marco, brutti strozzi. Fate le donazioni a Runtime, che sapete che d'estate stiamo con le pezze al culo, mi raccomando. Ringrazio quelli che hanno fatto le donazioni, in particolare Walter Vannini, Jimmy e Simone Ortolani, che ci hanno veramente messo una grossa pezza, e ringrazio Marco Gualdi e io salutami, ti saluto Kaila, salutami. Kaila. Kaila. Kaila. Kaila.